ho l'occasione di precisare che io mi sono riferito non al merito delle vicende che riguardano la gara italiana dei treni, ma alle parole dette dal Presidente. Dottor Mélier, sì, di Alstom a Berlino, che ha detto testualmente queste parole, le ho per caso sotto mano: da quando abbiamo firmato il contratto con NTV, che è la società che arriverà tra un po' sui binari italiani, non abbiamo più lavorato con l'FS, di cui fino ad allora eravamo fornitori. Avevo un eccellente rapporto con Moretti, ora non più, e chi vede in questa una strana coincidenza è nel giusto. Ecco, queste sono le parole che sono inaccettabili, perché da quando Alstom ha firmato il contratto con NTV ha avuto da noi ancora ordini, ha continuato a lavorare con noi, quindi le cose dette sono semplicemente false. E questo naturalmente è un tentativo di screditare la reputazione di FS, e noi, come normalmente, in maniera serena, ci difenderemo.